la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, benvenuti alla versione di Oscar, 16:36 primi 11 secondi, grazie a chi ci scarica in podcast, non dimenticate sempre che si può fare per chi non ci può ascoltare in diretta a quest'ora perché studio o per chi lavora. Novità della giornata ve ne dico solo una, l'Ocse che ha abbassato le stime di crescita mondiali, le ha abbassate molto sensibilmente perché pensate che oramai la stima di crescita attesa nel mondo in questo 2013 all'inizio dell'anno era quasi 4,5%, con i paesi emergenti che tiravano molto, finiremo, dice l'Ocse, a non oltre il 2,7%, è un dato brutto soprattutto per chi deve sperare nell'export come il nostro paese per tentare di avere un segno più. E fatevi una risata amara, sono andato a controllare non tanto i documenti del governo o dei governi precedenti sulle previsioni di crescita attesa italiane, perché di quello, come è giusto, ognuno può avere una stima più o meno elevata. Sono andato a controllarmi che cosa sulla metà dell'anno scorso la Banca d'Italia faceva come stima del debito pubblico italiano in questo 2013-2014. L'Ocse dice, e ha ragione secondo me, che nel 2014 salirà oltre il 133% del PIL. Banca d'Italia a maggio dell'anno scorso stimava il debito pubblico italiano in questo 2013, due scenari diversi aveva. Il primo diceva 120 e qualcosa per cento del PIL, il secondo, il peggiore, sarà 123,8% del PIL. Pensate, è di 10 punti superiori. Che paese può essere uno in cui si fanno errori previsibili? Sto parlando della Banca d'Italia, rapporto di stabilità finanziaria, lo trovate sul sito, l'ho anche richiamato su Twitter. Quando si fanno errori da un anno all'altro di previsione dell'andamento del debito pubblico pari a 10 punti di PIL. Riflettiamoci. Una delle cose per crescere è non solo meno imposte, come diciamo subito e tante volte, ma è l'apertura dei mercati, la concorrenza, che sembra dimenticata dopo che Monti aveva per l'ennesima volta detto farò le liberalizzazioni. Abbiamo visto il risultato. Allora, di che cosa parliamo oggi? Del fatto che esce l'indice per le liberalizzazioni 2013 dell'Istituto Bruno Leoni, che da qualche anno ci ha abituato a fare un report annuale comparato dell'apertura di diversi settori del mercato, 9 tra Italia e altri paesi europei. Viene ufficialmente presentato il 5 dicembre insieme all'autorità antitrust a Roma, però ieri il Corriere della Sera ne ha fatto un'anticipazione di 2 pagine, e siccome l'Italia tra 15 paesi europei è ultima in graduatoria nell'apertura complessiva di questi 9 settori del mercato, abbiamo con noi oggi il direttore scientifico dell'Istituto Bruno Leoni, Carlo Stagnaro, è qui, grazie. Grazie mille. Al quale chiedo di spiegare, innanzitutto, vediamo un po' chi, no, a chi è in ascolto e non è un tecnico della regolazione, voi come fate in realtà a comparare questi 9 settori del mercato tra 15 paesi? Come si procede? Ma si procede in maniera per certi versi intuitiva, anche se poi l'attuazione è più macchinosa. Per ogni settore si cerca di definire cosa vuol dire ottenere un grado ragionevole di maggiore apertura del mercato e di maggior liberalizzazione, guardando una serie di variabili quantitative o qualitative. Quantitative possono essere i livelli di concentrazione dei mercati, l'andamento dei prezzi, il numero di competitor presenti sul mercato e così via. Qualitative possono essere variabili tipicamente specifiche dei singoli settori, come la qualità e la natura delle attività di regolazione, la presenza o meno di monopolisti o comunque soggetti dominanti controllati dal settore pubblico e così via. E per ciascuno di questi settori, attraverso ciascuno di questi criteri, si costruisce sulla base delle statistiche o delle informazioni disponibili un indice appunto riferito a ogni paese. Noi ci siamo per ora concentrati sui 15 stati membri della vecchia Europa. Fatto questo, si fa un'ulteriore operazione che serve a rendere più fruibile l'indice, vale a dire noi chiamiamo 100 il paese più liberalizzato in Europa e chiamiamo 0 il paese meno liberalizzato. Questo ci consente di vedere per ciascuno degli altri paesi quanta strada è stata fatta e quanta ne resta da fare. Allora, chi è con questa metodologia il paese più liberalizzato e qual è quello meno? Il paese più liberalizzato, e questa non è una sorpresa, è il Regno Unito, che ottiene una valutazione pari a 100 in ben 4 settori: carburanti, mercato del lavoro, telecomunicazioni e trasporto aerei, con una media complessiva di liberalizzazione, come dire, totale pari all'84%. Il paese meno liberalizzato in assoluto, ai noi, è l'Italia, che ottiene una valutazione pari al 28%, conseguenza soprattutto del fatto che in alcuni settori il nostro paese fa molto male e in quasi tutti i settori fa maluccio. in pochissimi settori fa benino. Vediamo settore per fare capire, cominciando da quelli in cui facciamo peggio. Ma il settore in cui noi facciamo peggio in assoluto è quello della televisione. Naturalmente devo definire il peggio e il meglio, e ribadisco quello che accennavo prima. Per noi il peggio non vuol dire che siamo un paese che nell'ambito delle televisioni, per esempio, non ha alcuna concorrenza. Vuol dire semplicemente che tra tutti i paesi che abbiamo esaminato siamo quelli che ha il minor grado di concorrenza. Questo minor grado di concorrenza in Italia nell'ambito delle televisioni deriva inevitabilmente da una normativa pensata sulla base di un modello oligopolistico e soprattutto dalla presenza di un operatore pubblico di dimensioni e di peso estremamente rilevante. Altri settori nei quali facciamo male sono quello delle poste, a cui diamo il 2%. Le poste dell'Alitalia, esattamente. La distribuzione dei carburanti, dove pesa tantissimo la pressione fiscale che rende più difficile la concorrenza e pesano molto le normative regionali, con l'8%, e il mercato del lavoro, Savasandir, a cui attribuiamo l'11%. I settori dove l'Italia fa meglio, e fa meglio suo malgrado in qualche maniera, sono il mercato del gas e il trasporto aereo. Mercato del gas 79%, perché? Perché c'è stata una crisi pesantissima nel nostro paese che ha fatto crollare i consumi. Il crollo dei consumi determina per converso un eccesso di offerta, e dove c'è eccesso d'offerta involontariamente si mette in moto la competizione. Trasporti aerei facciamo abbastanza bene, 59%, un po' perché come tutti siamo soggetti alle direttive europee che ci impongono di avere la concorrenza, e un po' paradossalmente grazie all'Italia, avendo un vettore nazionale estremamente debole, gli altri vettori competitori hanno acquisito terreno e sono stati in grado di offrirsi ai passeggeri e ai viaggiatori. Ricordo che l'Italia pesa oggi rispetto al totale del mercato del trasporto italiano poco più del 20%, quindi quando si dice che pesa poco, la gente ha di solito l'idea che sia chissà come la quota di Alitalia. La quota di Alitalia è poco più del 20%, quindi quando vi dicono ma se si fa la procedura concorsuale per Alitalia poi rimaniamo tutti a piedi, no, è già così da anni che i passeggeri italiani hanno all'80% scelgono altri, però questo per farci capire. E questo secondo settore, cioè il trasporto aereo, malgrado i limiti che proprio sulla rotta su cui si faceva molto conto Roma-Milano nel 2008, quando ci fu l'operazione a carico del pubblico per lanciare Capitani Coraggiosi, si misero dei severi limiti alla concorrenza proprio sulla Roma-Milano. Cioè, malgrado nel settore nel suo complesso, noi è il secondo settore in cui siamo più aperti. No, in realtà il 59% deriva in parte dalla fine di quel monopolio, diciamolo. Perché questo, l'indice 2013 è riferito all'anno, a dati 2012, quando il monopolio legale sulla Roma-Milano venne meno. In realtà quel monopolio ebbe meno effetto di quello che si immaginava all'epoca a causa di un'altra forma ancora di concorrenza, che era quella dell'alta velocità, evidentemente, che prima del 2008 non era un'opzione realistica per spostarsi da Roma a Milano e viceversa. E mettendo tutto assieme ci troviamo di fronte a un mercato aereo che ha un ragionevole grado di apertura, naturalmente sotto la pesante incognita di quello che sta accadendo proprio in questi giorni attorno all'Italia. Liberalizzazione vuole anche dire che gli operatori inefficienti del mercato devono essere liberi di fallire e i loro asset devono essere mobili, devono essere liberi di essere acquisiti di chi potrebbe usarli meglio. Il governo ha deciso di impedire questo naturale processo di aggiustamento del mercato. Ma è uno dei settori in cui non è che ce la caviamo tantissimo bene, perché abbiamo solo 30 punti secondo la stima che voi date, quello dell'elettricità. Da cosa dipende? Dal fatto che in tariffa si pagano troppo cose che non hanno a che vedere col prezzo dell'energia, oppure da qualcos'altro? Dipende essenzialmente da due cose. Una è questa, cioè dal fatto che appunto la tariffa è gravata da così tanti oneri che la concorrenza funziona meno, e che questi oneri non sono semplicemente balzelli, ma sono connessi al fatto che c'è una parte significativa della produzione, cioè quella rinnovabile, incentivata, sussidiata, che è sottratta alle dinamiche del mercato. E dipende questo 30% anche dal fatto che quello elettrico, come altri mercati, è caratterizzato da una forte presenza pubblica, e vale qui quello che dicevo nel caso dell'intervento del governo su Alitalia, cioè forte presenza pubblica vuol dire non contendibilità degli asset, vuol dire che non c'è una reale mobilità dei fattori di produzione. Allora, adesso abbiamo il minuto di informazione stradale, ma io, Sagnaro, già le do la domanda da cui ripartiamo, la domanda che viene da un nostro ascoltatore, bello ruvido e tagliente, che dice: queste di oggi vostre sono cazzate da talebani del liberismo, e quindi dovremmo dare una risposta a cosa serve davvero aprire il mercato, ma è vero che si cresce, si fanno più occupati, oppure sono cazzate di talebani del liberismo? versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:47:42. La versione di Oscar di oggi: stiamo vedendo l'indice liberalizzazione 2013 dell'Istituto Bruno Leoni, 15 paesi comparati in 9 segmenti del mercato per apertura appunto alla concorrenza, valutazione del processo di regolazione, quanti soggetti e quanto sono liberi nel mutare con strategie di concorrenza le loro quote di mercato. Noi siamo ultimi tra 15 paesi, abbiamo visto i settori dove andiamo meglio, andiamo peggio, e un ascoltatore ci ha detto: sono tutte cazzate dei talebani del liberismo. Beh, talebani del liberismo forse, cazzate no. Cazzate no per due ragioni banali. La prima è che non le dicono solo i talebani del liberismo. Il messaggio dell'OCSE che ci è arrivato oggi, che lei citava in apertura, dice tra le altre cose: dovete rilanciare il processo di liberalizzazione, di apertura in particolare del mercato del lavoro e quant'altro. Il Fondo Monetario Internazionale ci dice la stessa cosa, la Commissione Europea ci dice la stessa cosa, la Banca Centrale Europea ci dice la stessa cosa, pressoché tutti gli esperti. Stamattina Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera ci diceva la stessa cosa. So, come dire, sarebbe una congiura abbastanza ampia per essere riducibile appunto a un fenomeno dei talebani del liberismo. Oltre a questo, una classifica che ha ai primi posti paesi come Regno Unito e Paesi Bassi, agli ultimi posti paesi come Grecia e Italia, come dire, ha un senso anche estetico in questa prospettiva. Le liberalizzazioni sono connesse a tassi di crescita nel medio termine, nel lungo termine, mediamente più elevati, e a un reddito medio tipicamente più elevato. Allora, a parte il fatto che per esempio nella telefonia, come si vede in tutte le graduatorie comparate rispetto a un reddito disponibile degli italiani sceso in questi anni per la crisi, dovreste ricordare che per quel po' di concorrenza che abbiamo, che non è poca nel mobile, è molto minore in realtà dal punto di vista dello sviluppo delle nuove reti sul fisso, ce ne siamo occupati mille volte, beh, quella è una delle pochissime voci la cui componente è scesa in termini di prezzo rispetto al reddito disponibile che scendeva. Le tariffe pubbliche, quelle delle municipalizzate che molte dicono tu, beni pubblici, non bisogna pagare, queste robe sono sempre cresciute, e questo vi invito a riflettere su questo punto. Stagnaro, se diamo un occhio agli altri paesi europei, diciamo grandi, cioè la Germania paese leader e la Francia che se la passa malino, ma insomma anche lei ha un grande impatto sulle politiche europee, come stanno? Stanno sotto la Gran Bretagna? Stanno a metà? Stanno sotto? Perché è un po' giusto o sbagliato pensare che loro in realtà di concorrenza a casa loro non ne hanno molta, non la amano? Ma è sia giusto che sbagliato. Sia Francia che Germania stanno in realtà esattamente a metà classifica, con valutazioni attorno al 50%, e sono due paesi che si distinguono per essere molto poco aperti alla concorrenza in alcuni settori, ma anche ragionevolmente aperti alla concorrenza in una serie di altri settori. È vero che Francia e Germania non sono, come dire, due modelli di apertura alla competizione, è ugualmente vero che sono paesi, più la Germania della Francia in questa prospettiva, che hanno saputo trovare una via di crescita attraverso come dire, altri strumenti, altre leve diverse dalla mera liberalizzazione dei mercati. Vale la pena osservare che nella Francia, nella Germania, che pure, soprattutto la Germania, ancora una volta, stanno meglio dell'Italia, stanno benissimo in senso assoluto, e che anche la Francia e anche la Germania, questo almeno vuole essere uno dei messaggi del nostro indice delle liberalizzazioni, hanno un grande potenziale di crescita nascosto nella scelta o non scelta di aprire i mercati alla concorrenza. Allora, un altro ascoltatore tra i tanti, vedo che sono molto critici, non ci credono in pochi oggi, tra quelli che mandano messaggi al 349-238-6666, che al fatto che le liberalizzazioni davvero facciano crescere. Molti dicono: non abbiamo ancora capito che il neoliberismo è un disastro, non c'è mai stato in Italia, solo comandato lo Stato che cresce in Italia, questa è la mia risposta. Ma un altro ascoltatore dice: in un paese ad alta corporativizzazione e anche ad alta corruzione pubblica, non è che da una parte le liberalizzazioni non si fanno per questo, ma soprattutto dall'altra rischiano poi di mettere imprese finto concorrenziali in mano ad amici degli amici, come è accaduto con la telefonia eccetera eccetera, e anche con l'Italia? No, mi fa molto piacere questa domanda, perché se noi crediamo che la corruzione e l'illegalità in generale siano un problema, allora liberalizzazioni e privatizzazioni sono una parte molto grossa della risposta. La corruzione esiste perché il settore pubblico ha un potere grande e discrezionale. Liberalizzare e privatizzare vuol dire... privatizzare vuol dire ridurre il potere pubblico. Liberalizzare vuol dire renderlo molto meno discrezionale. Se noi vogliamo combattere la corruzione, che per definizione è un comportamento illecito di funzionari pubblici affrontino un comportamento altrettanto illecito di soggetti privati che ritengono di avere un beneficio da questo, dobbiamo privare il settore pubblico della possibilità di essere corrotto, dobbiamo togliere diligenza dalle strade per sottrarle ai banditi e dobbiamo, come fanno i credenti quando recitano il Padre Nostro, rivolgersi al governo, allo Stato e chiedergli di non indurci in tentazione. Grazie a Christian che nel frattempo dice no, guardate che è un ossimoro dire talebani del liberismo, perché chi crede nel liberismo è un libertario, quindi i talebani non gli piacciono per definizione, i talebani sono solo dello statalismo. Questa opinione di Christian è anche la mia opinione, però rispettiamo Christian quelli che la pensano diversamente. Un ascoltatore le chiede, Stagnaro, attenzione, voi dite di nuovo liberalizzazione del mercato del lavoro quando ci sono tanti disoccupati, ma perché non dite che vanno liberalizzati innanzitutto le professioni, gli avvocati, i farmacisti, eccetera, eccetera? E chi l'ha mai detto? È Alba che le fa questa domanda. Noi diciamo che bisogna liberalizzare il mercato del lavoro e anche che bisogna liberalizzare le professioni, le farmacie e quant'altro. Diciamo che non esiste nel mondo reale un lavoro diverso da un altro lavoro. Liberalizzare le professioni è un pezzo di una strategia di liberalizzazione del lavoro. Quindi guardate che le professioni ingessate, oppure i 240.000 avvocati o i 40.000 che possono patrocinare in Cassazione e sono 160 in Francia, sono un pezzo fondamentale della liberalizzazione del mercato del lavoro. Pasquale da Firenze, ce l'abbiamo in ascolto. Prego Pasquale. Salve, senta, salve. Io sono... No, non sono in astratto contro il liberismo, ma contro il liberismo in questo momento sono, perché sì. Noi abbiamo un esempio delle slot machine, sono state liberalizzate per modo di dire, sono tutte di proprietà di politici o di parenti di politici o di amici di politici, quindi a questo punto il liberismo partecipato, quello non mi piace, e alla fine è difficile in uno stato dove il sistema Italia è governato da questi politici accettare di buon grado un liberismo sfrenato. Però lei mi sta dicendo che lo Stato è quello che è e di cui ha parlato lei, è meglio? Noi pensiamo modestissimamente che la concorrenza tra non amici dello Stato con delle regole, perché lo Stato regolatore ci piace più del gestore che ha fallito e fallisce, ecco, quello Stato lì regolatore è meglio di quello che invece si gestisce agli amici degli amici. Tempo è finito, grazie Stagnaro, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.